Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Benvenuti, benvenuti, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori di Resto Radio Convento. Come sempre, la web radio del convento di Lonato del Garda. Un altro sabato dinner and dance qui nel nostro locale. Un altro sabato dinner and dance qui anche all'interno della nostra Resto Radio. Come sapete, noi seguiamo ogni momento live dall'inizio alla fine. E poi intorno all'una di notte apriamo le nostre porte e accendiamo le nostre luci per far entrare i nostri ospiti e far parlare a un po' loro, insomma far raccontare qualcosa della loro serata e anche e soprattutto conoscere meglio quelli che sono gli amici ormai diventati tali durante il nostro sabato sera qui dinner and dance. Abbiamo qui con noi un collega, perché so che insomma anche lui si diletta di questo mondo, però questa sera ospite, perché so che stai sei qui per festeggiare qualcosa anche tu. Intanto benvenuto, come ti chiami? Ciao, io sono Alan e grazie mille per questa presentazione che non sembrava il caso, però sono qua a festeggiare il 25esimo compleanno di Sara. Ah, giusto, giusto, che tra l'altro che è quella con la coroncina, giusto? Esatto, la regina della serata del convento, scusatemi. La regina della serata, come mai ha preso questo titolo? L'ho vista anche con la fascia tipo sindaco Miss Italia, no? Lei era quella lì, è tutto. Sì, esatto, lei è tutto, questa sera si sta divertendo qua al convento come ogni ragazzo e ogni ragazza che abbiamo qua. 25 anni, giusto, 25 dicevi? Anni. Poi magari sarà anche un piacere averla ai nostri microfoni per sentire direttamente la sua voce, le sue impressioni. E allora Alan, tu cosa fai nella vita di bello? Allora, io praticamente, cioè, cosa che vorresti sapere? Un po' di tutto, quello che vuoi tu. Allora, praticamente io lavoro con l'automotive, non so se l'automotive, praticamente mi occupo di auto e nel tempo libero, per passione, faccio il vocalist e lo speaker. No, hai visto, ne parlavamo un po' all'ingresso, dai, allora, visto che, come dire, il lavoro di tutti i giorni, non dico ci annoia, però fa parte del nostro dovere, chiamiamolo così. Noi qui parliamo di sogni, parliamo di piacere, parliamo di cose che ci interessano e passione, assolutamente. Quindi raccontaci un po' intanto da dove è nata questa passione per il microfono, perché ti dico, dopo anni di militanza qui dentro c'è una sorta di microfonofobia, che io così ho chiamato, sì. E tanti hanno paura di questo oggetto, mentre da parte tua è diventato un alleato, un compagno di vita. Allora, da dove è nata questa passione? Allora, io posso dire una metafora, che praticamente la passione del microfono è nata dalle cuffie. Ok. Quando ero giovane praticamente ascoltavo le canzoni via cuffia e commentavo praticamente le canzoni, nel senso come se fossi in una discoteca vera e propria. Da lì è un attimo. Esatto, da lì è un attimo. Il passo è veloce. Piano piano, sai, ti compri il primo microfono, ti compri la prima console, inizi un pochino a dileguarti, a spacciarti per DJ. E da lì ho avuto delle opportunità, per fortuna, che mi hanno aiutato a crescere. E ora sono dove sono arrivato e sono veramente contento di questa passione. Bene, bene, insomma, come dicevo, è una cosa abbastanza particolare, perché tanti suonano, ma quelli che poi si dilettano col microfono sono purtroppo pochi. Quindi è un piacere condividerla con te. Dove esprimi questa tua passione? Dici un po'. Praticamente all'inizio facevamo le feste in oratorio. Beh, siamo partiti tutti da lì, abbiamo fatto tutti quello per partire. Poi piano piano, con le feste private e trovandoci magari tra amici così, siamo finiti a posti un attimino più importanti, diciamo, fino al giorno d'oggi, diciamo. Bene, bene, bene. Poi mi dicevi, esatto, che fai sia radio che vocalist. Sia radio che vocalist, sì. Ok, scusate. Allora, vocalist per un locale unico o vai in più locali? Sono più locali, però principalmente per un locale. Ok, allora giro la domanda, sempre in compagnia dello stesso DJ o anche lì in base a, cioè, nel senso, vi chiamano come coppia o chiamano uno e ti aggiungono eventualmente? Allora, di solito per un DJ. Ok, quindi è proprio una coppia, esatto, di fatto, insomma, esatto, una coppia artistica. È una coppia artistica di fatto di due DJ, a dirti la verità, però di solito cerco di seguire un DJ unico. Beh, certo, perché poi si crea una sorta di, non dico sia come una fidanzata, però più o meno uguale. Sì, no, però giusto. Le conoscenze, diciamo, che di questi due DJ sono abbastanza familiari. No, però nel senso è giusto che sia così e che una persona si fidelizzi, insomma, crei una sorta di intimità anche con l'artista in questione, perché poi si deve creare quel feeling, si deve creare quella sintonia che si crea solo lavorando esatto. insieme, facendo serate. Ed è chiaro che se tu continui a cambiare il protagonista o il DJ che suona, come dire, è come uscire la prima volta con una donna diversa ogni volta e mai andare avanti col conoscersi. Quindi è chiaro che l'empatia che si crea non si riesce ad amalgamare, oppure si crea molto più avanti. Quindi come scelta è più che giusta. Radio invece dove riesci allora, a farla? Il radio non so se è abbastanza conosciuta, si chiama Radio 51. Sì, è una radio cresciuta per passione anche. Ok, questa. Ok. E praticamente è sia sul digitale che sull'FM. È una radio praticamente di noi ragazzi che cercano di esprimersi, cioè cercano di esprimersi negli anni 70, 80, 90, 2000 qualche volta, però comunque cerchiamo di impegnarci a far sentire che anche i giovani di oggi seguono quello che è il passato. Ok. Insomma, non una cultura musicale, una preparazione di un certo tipo. Bello poi comunque questo spazio per far crescere, come dicevi tu, e dei giovani anche. Volevo chiederti quindi, da un addetto ai lavori, diciamo così, che differenze vedi tra uno speaker radiofonico e un vocalist? Quali sono secondo te le peculiarità di un ruolo e quelle di un altro? Perché tanti ancora li confondono, li confondono e dicono che siano la stessa persona, ma non è così. No, allora ti posso dire la verità. Essere uno speaker in live, come posso dire adesso, uno speaker in live, quindi c'hai un palcoscenico davanti, c'hai un pubblico che ti sta ascoltando, che ti sta seguendo, e essere dietro praticamente a schermi, microfoni, così, io personalmente sento la stessa scarica di adrenalina, mm-hmm. e scarica nel senso che mi sento praticamente che faccio parte dell'automobile, okay. e del palcoscenico. Certo. Nel senso che ormai siamo in una dinamica, sono in una dinamica dove posso dire io comunque ho gente che mi ascolta, quindi devo far parte di loro. Certo. E allora siamo, cioè nel senso, sì, cioè dobbiamo tagliare la corda. È un lavoro che impreca voglia e passione di trasmettere una passione, che nel senso di accompagnare comunque la persona o il pubblico a divertirsi e a sentirsi a suo agio, diciamo. Certo, bisogna avere anche qui, ho usato la stessa parola prima, però bisogna avere empatia. Anche con chi hai davanti, nonostante siano perfetti sconosciuti, perfetti estranei, e riuscire appunto a capirne più che altro le vibrazioni, non tanto i sentimenti, ma veramente le vibrazioni, per, come dicevi tu, accompagnarli in una specie di viaggio sulle montagne russe, perché alla fine il vocalist, lo speaker è quello, cioè uno che non deve essere monocorde sia nel tono della voce che nell'attitudine. Non deve essere impostato, mi raccomando. Esatto, no, però soprattutto monocorde proprio nell'attitudine, perché non può essere sempre la stessa persona, si deve un attimino continuamente adattare alla situazione e a quello che vede davanti ai suoi occhi. A un pubblico più carico in un certo momento, meno carico in un altro momento, è ovvio che se tu sei sempre carico a mille e non riesci a leggere la situazione, sei un po' anacronistico, cioè come dire, sei tu da solo ma non segui le vibrazioni che il pubblico ti sta dando in quel momento. Allora caro Alan, hai anche un nome d'arte? O? Allora sarebbe Alan in Voice. Ah, Alan in Voice, di ok. Di solito usano Alan the Voice. Sì, io Alan the Voice. Perché io sono dentro la voce. Oh, bene, Alan in Voice. Allora, ok, io purtroppo non ti posso regalare un palcoscenico perché abbiamo questo studio. Me l'hai già regalato. Ma, ti posso idealmente portare sul palcoscenico, perché abbiamo la possibilità e l'abilità di collegarci con la nostra pista, dove il nostro DJ sta suonando, e dai, ti facciamo entrare un po' nel mood e nella vibrazione del nostro pubblico e vediamo cosa ci regali. Dai, vediamo cosa ci fai sentire. 42. Ecco, ho beccato la canzone più commerciale del mondo, come sempre. Macarena. Ciao Silvana. Carlone ti aspetta anche domani. È così il ballo. Bella grande domenica. Te lo so che non manchi mai. Ci sei sempre. Con DJ Carlone. Per lui ci sei, per me non ci sei mai. Il sabato non vieni mai per me. È il divertimento che cresce piano piano. Ormai non posso dire che la pista è surriscaldata. Col bacino, col bacino. Yeah. E qua si va con la mano a paletta, da sinistra a destra. Il convento vi regala solo emozioni. Fai bene. Anche io con te verrei sempre. E non solo il sabato. Questo non è le Alan, sia chiaro, Alan è molto più professionale. Tutti i giorni. E la carica, è il reggaeton di quest'estate, sta crescendo piano piano. E ce lo ricordiamo tutti insieme, il Mambo Salentino. Salutiamo gli amici e le amiche di Paolo da Padova. Mambo Salentino e tutta la Puglia. E salutiamo la Puglia che ci ha regalato questa perla. Contigo? Voglio sentire la voce che la conoscete? Com'è che fa? Despacito. È il calore che ci trasmette questa canzone. Solo al convento si può sentire. Un calore che ci abbraccia così tutti insieme. Per tutti i nostri, come possiamo chiamarli? Beh, un po' per tutti, sia per gli ascoltatori che ci stanno seguendo in radio, ma anche per gli amici che stanno ballando qui, uno special guest questa sera. Ciao, che ballando. Il nostro Alan in the voice, no, in voice, Alan in voice. In voice, mi raccomando. Maxi. Qui dagli studi di Risto Radio Convento, ma anche in pista. In questo momento ci stiamo, come dire, integrando, cercando di integrare col nostro DJ Carlone. La regina con la corona, direttamente da Amazon Prime col Black Friday. C'era Black Friday. Salutiamo le trivelle del Lago di Garda. È il convento che ci regala così un pochino di musica, diciamo, caraibica. Ci sta caraibica, assolutamente. Caraibica. Se volete lo vendiamo. Era un pochino più mamma, com'è che si dice? Mamma Africa. Ah, un Africa. Pochino di afro. Sì, afro. Il convento afro. Così. Alle 1:26, questa è la situazione al convento. Musica afra. No, perché è musica, è femminile, quindi è, insomma, no, volevo dire afro perché sai, è canzone a tutto volume. Con le mani nel tempo che facciamo un video su Instagram convento sulle mani. E vi ricordiamo che il nostro Carlone con Carlone DJ. Il nostro Carlone non sa che noi stiamo cercando di parlare sopra di noi. No, infatti stiamo cercando di fare un'impresa titanica, perché da fuori non ci sentono. Quindi noi stiamo cercando di leggere con l'audio quello che succede e interagire, ecco, con Carlone e Stefanuccio, che stanno sono invece in pista fisicamente, ma non sanno che noi siamo contemporaneamente qui. Quindi è un gioco di, come dire, quasi un Tetris che stiamo cercando di fare. E per fortuna che abbiamo il nostro Master Nick, grazie, grazie, troppo buono, che ci salva. Però ti posso fare una domanda? Sì. Perché Master Nick? Perché praticamente io sono musicista, e quindi quando sono entrato mi hanno dato questo nomignolo di maestro, perché suonando anche, quindi mi sono dovuto, come dire, mettere sulle spalle questo carico, questa responsabilità e questa etichetta. Ti posso dire la verità? A me hanno dato un tuo nomignolo diverso. Sì, ma è normale. Non si può dire non. È normale però. Che gira, è normale che giri. Diciamo che hanno cambiato la prima consonante. Esatto, potrebbero immaginare. Gli ascoltatori potrebbero immaginare. Sì, cioè, sì, Master Nick. Cosa potrebbe diventare? Cosa potrebbe essere? Diciamo che solo poche persone al mondo sanno se è vero oppure no. Poche? Pochissime, pochissime. A quelle persone dico che è tutto vero. Bene, bene, bene, ci siamo fatti qualche minuto in diretta insieme al nostro DJ Carlone, con la nostra pista live, calda, vibrante, come ha giustamente definito e sottolineato il nostro Alan in voice. Allora Alan, noi ti aspettiamo per fare le repliche adesso, quando, Master Nick, quando hai la data libera ti aspettiamo a fare le repliche, perché abbiamo bisogno della tua energia e della tua passione e della tua positività. Grazie, ti ringrazio veramente. Dai, vienici tanto a trovare, e direi di chiudere facendo ancora gli auguri alla tua amica, la tua festeggiata. Vai, la vuoi ricordare? Esatto, la regina Sara, che compie 25 anni. Dai, dai, che adesso l'andiamo. Le facciamo tanti auguri e ringrazio veramente tanto Master Nick, mi raccomando. Con la N, scrivetelo. Con la N. Sui diari, sui vostri diari. E dicevo, anche noi le facciamo gli auguri, vediamo se riusciamo magari a rapirla dalla pista e portarla qui nei nostri studi per sentire anche le sue impressioni. E dai, sarebbe bello. Oh ragazzi, lasciatevelo dire da me, questa sera il convento veramente, ma veramente spacca. Grazie Alan in voice, a presto. Ciao ragazzi.